Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Questa nuova settimana la cominciamo come sempre con l'Adico di Mestre. Un saluto a Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao a te Francesco, un saluto agli amici in ascolto. Parliamo di bollette, però questa volta di bollette che non arrivano, e quindi uno dice bene, e invece non è così tanto bene, perché poi a un certo punto le cose vengono a galla, no? E di questo parliamo, giusto Gianluca? Sì, sì Francesco, parliamo di questo, e sai che quando parliamo di qualcosa è perché effettivamente la nostra associazione sta seguendo diversi casi, non lo facciamo mai casualmente. Ecco, in questo caso vogliamo parlare di un problema che esiste ed è molto sentito, no? Da tempo da parte degli utenti, ed è quello appunto del non recapito delle bollette. Cioè io per mesi non ricevo a casa la bolletta della luce, del gas, insomma delle classiche forniture, soprattutto luce e gas. Questo succede spessissimo per problemi tecnici evidentemente da parte delle aziende, per altri tipi di motivazioni. Diciamo subito che l'errore più grande, più grossolano, potrebbe essere quello di fregarsene altamente, potrebbe essere anche il primo pensiero: occhio non vede, cuore non duole, non mi arrivano le bollette, sono tranquillo. E invece questo potrebbe essere un grosso errore, perché comunque prima o poi le bollette arrivano. Quindi nel caso in cui ci sia questo problema, la cosa fondamentale è sollecitare l'azienda a inviare le bollette, perché appunto non le stiamo ricevendo. In questo contesto noi stiamo seguendo vari casi, varie situazioni. Abbiamo raccontato qualche tempo fa di una signora che in questa situazione appunto non riceveva bollette, le ha sollecitate e in un giorno solo ne sono arrivate 16 in casa, quindi si è trovato con un belle 16 bollette in casa. Chiaramente ha chiesto una rateizzazione, è stata accordata, però sempre rateizzazioni molto impegnative. Di recente, sto parlando l'altra settimana, invece una giovane mamma con tre figli, di cui una anche con una forma abbastanza grave di asma, si è ritrovata praticamente senza luce e senza gas, gliel'ha tolte Eni, e anche qua tutto il problema nasce dal fatto che lei per ben un anno, per vari mesi, non ha ricevuto le bollette dell'Eni. Una volta che le ha sollecitate, gli è arrivato un conto salato da 1.600 euro, e ha chiesto una rateizzazione, anche perché la colpa chiaramente era di Eni, e la rateizzazione è stata accordata, ma corrispondeva a circa 250 euro al mese, che si aggiungevano chiaramente alle bollette alle nuove bollette che stavano arrivando, quindi una cifra che per questa persona non era affrontabile. Al che, in attesa di nuove risposte, il tempo è passato, e a un certo punto da un giorno all'altro si è trovata con il depotenziamento della fornitura e fino al definitivo stacco. Qua c'è un problema, nel senso che Eni dice di aver avvisato tramite raccomandata del depotenziamento, la donna dice di non aver ricevuto mai nulla. Questo ovviamente andremo a verificarlo. Resta il fatto che per un errore del fornitore l'utente si ritrova in gravi difficoltà, perché ogni mese deve sborsare, oltre alle rate, le bollette che appunto non erano arrivate, chiaramente anche le bollette per la fornitura che consuma al momento, in quei mesi. Per cui è una situazione un po' al limite. Noi come associazione consigliamo ovviamente, come ho detto all'inizio, di sollecitare le bollette, anche il prima possibile. Se mi doveva arrivare lo scorso mese e non l'ho vista, sollecito. Tanto prima o poi la bolletta arriva. Ricordiamoci che le aziende che forniscono non si dimenticheranno mai di farsi pagare le bollette. Sull'altro fronte, speriamo che chiaramente qualcuno ci ascolti di queste grosse aziende, delle aziende che forniscono gas e luce, noi diciamo che se l'errore è loro devono venire ampiamente incontro all'utente, anche a seconda delle possibilità dell'utente. Per cui in un caso come questo della ragazza che si è ritrovata senza luce, senza gas, che ha dovuto fare i salti mortali per recuperare tutti i soldi per avere il riallaccio della fornitura e per poter stare al caldo appunto con un figlio che soffre anche d'asma, ecco, diciamo che in questo caso è una situazione appunto non dovuta a una negligenza dell'utente, è un utente che non può poi neanche affrontare per la spesa che era stata paventata per un errore, ripeto, dell'azienda. Quindi, ecco, da una parte sollecitate le bollette, perché prima o poi arrivano, e quando arrivano arrivano tutte in un colpo, e di contro però diciamo le aziende fornitrici, se fanno un errore, dovete venire ampiamente incontro all'utenza. Certo, è una cosa che può capitare, e eventualmente immagino che se uno resta senza corrente potrebbe anche chiedere i danni, perché magari avevo molta cosa nel frigorifero, è andata persa proprio per colpa di questo qui pro quo. Per esempio, Francesco, nella questione di questa mamma, giovane mamma, che è rimasta appunto senza gas, senza luce, valuteremo la questione della raccomandata, perché se non c'è la raccomandata inviata da Eni con l'annuncio del depotenziamento, si può anche procedere con una richiesta risarcitoria per questi 3-4 giorni in cui la donna è rimasta senza fornitura, e per un riallaccio che è avvenuto solo esclusivamente quando la donna ha assicurato di pagare tutto, e anche quei famosi 1600 euro che sono in realtà le bollette arretrate, che per un errore di Eni non le sono state recapitate. Certo. Sembra abbastanza assurdo, nel senso che a nostro giudizio in questo caso Eni avrebbe dovuto chiedere alla signora quale fosse l'importo più adeguato per mensile, per andare poi a onorare l'intero debito, ma non decidere ora 8 rate da 260 euro che aggiunte alle nuove bollette creano un grandissimo problema alle casse di qualsiasi famiglia, di tante famiglie. Certo, abbiamo messo in luce questi fatti grazie all'Adico, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it, e grazie a Gianluca Codognato. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.